Nessuno, sempre. Il mio nome è nessuno, ebbene già fra. Sto cercando. Oh, yeah. Sto cercando. Oh. Cercando di ricordare come si fa a giocare, è la cosa più difficile, guai. Ieri a proposito mi sono sentito con Marco e lui quel collegamento seriale dal, come si chiama, dal TS 2000 ce l'ha, lo utilizza per fare quell'operazione lì, però c'ha il driver, c'ha il dischetto lui. Che differenza fa? Tu l'hai preso dal sito Kenwood, ed è la stessa cosa. No, no, per attivarlo al computer, ecco, se tu prendi il cavo originale Kenwood e lo attacchi al computer, non funziona, devi per forza installare, ci vuole il driver di installazione. A cosa ti riferisci? Guarda, io l'ho usato miliardi di volte il sistema, quindi no, non c'è testo al fatto di provare i driver, servono per installare altre cose. Stiamo parlando del programma che tanto ti è caro, HRP 2000, quello lì è un banale collegamento seriale o seriale. Sì, ma da seriale a USB, almeno lui mi ha detto così, poi io non ti ripeto, non sono pratico, le persone formate sui fatti siete tu e lui. Ha detto che se tu lo prendi il cavo diretto non funziona, quel programma per vedere il computer, interfacciare, scusa il computer, per vedere la radio sul monitor. Ha detto ci vuole il dischetto, mi ha detto questo è il drive di questo cavo, mi ha detto. No, come sempre si fa un sacco di confusione. Allora, quell'attrezzo USB che tu colleghi, lo colleghi perché non c'è la seriale, semplicemente nel computer. E siccome le seriali non le mettono oramai, anche perché ci sono i cavetti USB che tu l'hai comprato nuovo, mi confermi? Punto di domanda. Il cavetto USB io non l'ho comprato nuovo, ce l'avevo io un cavetto USB. Spostiamoci però che magari qualcuno entra e diamo fastidio pure. Oh, vabbè, ce ne possiamo mandare anche in altre bande, però andiamo sull'uno, dai. Ok. Claudio, ma che mondo è il mondo? Noi radioamatori quando abbiamo dovuto fare delle prove di PC, tarature, balle varie, siamo sempre andati in VHF, in frequenza simplex, il VHF è il problema risolto. Qual è il problema? Ce n'è di frequenza, no? 145, 300, 250, insomma, intermedie, 500, 550. 50. Non ho capito perché state sul 27 nel canale 1, intanto se la gente deve entrare, anzi siete più a rischio disturbo, invece lì chi ti può disturbare magari è solo un radioamatore. Vabbè, prendete il Boigi. No, un attimino, te lo spiego io, il motivo è molto semplice, siccome nella fattispecie stiamo facendo un collegamento proprio con un apparato che è il TS2000, che lui non usa, cioè non usa, o meglio deve rimanere in un certo stato, quindi non usabile in trasmissione, ecco il pericolo anche magari fare qualche danno, se no noi dobbiamo forzatamente o operare qua o al limite in PMR con altri apparecchi comunque che non siano quello oggetto della nostra attenzione. Il motivo è tutto quello, ecco. Ah, ecco, perché magari rischi che ci sia qualche rientro, qualcosa va a disturbare, ho capito. Capito che ho già fra. Va bene, avanti Robè. Ok, applicatela così per evitare, siccome non sono pratico di quell'apparato lì, per evitare problemi gravi, diciamo, c'è il rischio che magari fa qualche rientro e sfasci qualcosa, è meglio sempre evitare. Comunque, visto che siamo soltanto sul 10, vediamo se nel frattempo qualcuno ha interesse a partecipare al QSO, se no, come si dice Claudio, come si dice Claudio, ricordamelo tu. Ah, che attaccamento è che è te? No, male di possa, ma come te? Ah, se no te la bilingoma devo chiamare. Hai detto bene. Comunque non è dato nessuno, di nuovo a te già fra. D'altronde non si può obbligare la gente a entrare quando non può entrare. E così? Io ce l'ho anche stamane, ma non c'era nessuno. A parte qualcuno che prova la portante, ma non entra, che dimostra che non è interessato. No, mi faccio girare le balle veramente. O fischiano, o schiacciano, o fanno. Io tutti i colori ci intendono, ma no. Poi c'è avanti chi è? È manco, ti cagano. Ma vai a rompermi le balle. E qualcuno è timido, dai, diciamo che è timido, là, per non dire... E vuole così bene. Ma siamo sopra una cara. Abusivamente non c'è nessuno, non c'è nessuno. Quelle poche persone ci sono, c'è avanti e non entrano. Butti, avete i conti che la pigia la portante. Ma figlia di Angoma le posso amare. Non ti roba. No, scusa roba. No, poi la cosa bella è che tu te ne vai su un canale sperduto, dici qualcosa che non aggrada a qualcuno e li puoi sentire i cellulari squillare, no? Poi c'è sempre quella carognetta che ti segue, che ascolta. Tanto sempre una, Emmy, non è che ce ne siamo. Sempre quello che ti ho detto, hai capito? Ti segue, ascolta, poi riferisce, poi manda il WhatsApp. Prende a pezzi da ieri, però non sa che magari qualcuno può girare il WhatsApp come è successo a me. Miserabile, ragazzi, beccare il deccuci. Non detta brutto, non lo senso la parola. Avanti, Roberto, cambiamo discorso. L'altro giorno, proprio per non creare problemi a nessuno che ci ascoltasse, nessuno, ce ne siamo andati su Cibito, che ci siamo messi un canale che eravamo solo io e Gianfranco. In un attimo sono arrivate prima 4 e poi 5 persone in tutto eravamo. E uno ha schiacciato, ah scusate, sto facendo una prova di trasmissione, cioè non capisco che prova di trasmissione puoi fare su Cibitalk, perché se no sono tutti uguali. Ma infatti capita sempre così. Se piccio parlo, se non devo parlare sto silenzio, come ero poco fa nell'uno ascoltando a voi, come ero nell'RDR o negli altri frequenze ascoltando, non mi interessa parlare, non ci parlo. Capito? Sono argomenti che io non mi interessa a me di parlare di quelle cose, non mi interessa. E quindi sono ascolto, ma se uno piccia e ti dico avanti, o stai fischiando, vuol dire che la rei non vedrai. Capito? Se fischi vuol dire la rei non vedrai, quindi fa vedda, lo cacci per sempre. Sì, così. Vabbè, per curiosità ne ho trovato un'altra, quest'altra che è più grossa, l'ho inserita, l'hai istantaneamente riconosciuta. È sempre di quella stessa ditta, cinese. Ma i miei cinesi sono falliti, quella ditta mia deve essere fallita, li hanno sequestrato tutti i macchinari e li hanno cancellati. E vuol dire che era, che non era favorevole a coso, a, come si chiama? Cinciunping. Come si chiama Claudio? E chi? Ciao Cinciunping. È il presidente cinese che... Una volta anche il ministro degli esteri ha sbagliato il nome. Xi Jinping, Xi Jinping, quello lì. Sì, Xi Jinping, sì, quello lì. Ma l'unico che io ricordo e le faccio ricordare era Mao. Mario Mao e Mao. No, questo è Xi Jinping. Poi ne dicono altri, ma c'è quello lì. Quindi avete sistemato questo PC o no? No, non è il problema, il PC è tutto a posto. Il problema è che questa porta seriale di dietro del TS2000 va ad attaccare al PC per comandare solo a livello di divertimento, mica, per far funzionare il TS2000 col computer, cioè ti appare sul monitor del computer e vedi tutte le informazioni, i menu, eccetera. Insomma, uno non riesce a riconoscere questo cavo. Il problema è quello, il computer già funziona benissimo. Il cavo non è nuovo, ce l'avevi già tu, l'hai comprato uno. Il cavo me l'ha dato uno, mi pare c'era anche tu Gianfranco, che si attacca al TS2000 e da lì poi c'è una specie di interfaccia e va a finire i USB al computer, però non lo riconosce, cioè nel senso come che non li metti niente. Gianfranco ne ha un'altra a casa sua e dice che funziona, questa non funziona, deve essere difettosa. Tieni presente che l'interfaccia l'ha procurata lui, ovviamente magari la utilizzava qualche antenato per collegarsi alla clava, ecco. Anche quello c'è. Guarda, secondo me quella me l'ha fatto l'audio, e l'offio, lui dice così non ti vuoi entrare e ti blocco. No, assolutamente, sono cose che io ho fatto negli anni che furono, per il 2000 e tante altre radio collegate al PC, però mi ricordo manco forse sempre tramite Marco, ma ho fatto qualcosa, perché il cluster me l'aveva attivato lui, il pacchetto me l'aveva attivato lui, tutte le cose che sapevo fare prima cioè mi sono anche dimenticato, me l'aveva insegnato lui, quindi sicuramente sono cose che ho già fatto, però a dirtelo adesso come si fa o come ho fatto, anche se mi spacchi la testa, sono diventato più rincoglionito di Gianfranco. Sì, c'ha ragione, ecco, cosa pretendi? Anche noi abbiamo il nostro diritto a invecchiare, non è che dovremmo sempre rimanere attaccati a cose. Però se non altro siamo aperti a tutte le innovazioni e non come certi che insistono e persistono nell'utilizzare le cose demodé, no, ma neanche demodé, che funzionano molto peggio delle cose. Mi ricorda un po' una volta che era di Maturi, erano ostili come la peste alla banda laterale. Ce n'è voluto per convincerli a passare tutti in banda laterale, poi quando si sono accorti che andavano più lontano, allora piano piano si sono convinti, ma prima erano come i CB che ci sono qua, AM o niente. Lo so. Altri tempi, come diceva quello, vabbè, comunque, andava. E poi quel foro l'ha fatto Gianfranco, il muratore, o vabbè. Sì, tutto a posto, è venuto anche l'idraulico, ha fatto gli scarichi, ha messo tutto, si è andato dopo. Oh, si guarda a Bricome stamattina, un'ora e mezza, lo sai i signori cosa fanno? Devo prendere il piatto doccia e il WC nuovo, il water, devi andare a dire come, ci hanno andato un mese prima, ne avevo comprato un altro di cosa, di water, sono andato a prendere, mi dia quello, no, non si prende da qua, deve andare a Caniga, sono costato un'ora, e chi vede lì pure un'altra mezz'ora, c'è il contrario. Prima di ridere, poi più di mezz'ora a ritirarlo a Caniga di fronte a Scandellari. Ho detto, ma ti pare, avete quello dell'edilizia a fianco, mettila di là, ma no, dovete, adesso è cambiato, deve andare lì. Sono guidato un'ora e mezza per prendere due cagattine. Anche io prima quando ho iniziato qua a fare lavori andavo sempre lì, alla fine mi sono stufato, anche ultimamente dovevo prendere dei tubi in PVC. Cioè ci ho messo 10 minuti a prendermi tutti i tubi perché non c'è la misura da 2,50 m, tutto, mi ho caricato tutto e poi sono rimasto un'ora e tre quarti in fila, in cassa, ma vai non ammara. Io adesso vado sempre alla Vesole, vabbè, come mi hai detto tu, vado alla Vesole, mi tratta bene perché conosco tutti, capito? Vado lì, pago 10 centesimi in più la roba, 50 centesimi in più, 1 euro in più, ma entro e esco, mi prendo, mi caricano la macchina, mi danno tutto, e quando mi serve roba grossa, come l'altra volta che ho preso il cemento, mi hanno mandato il motocarro e non ho pagato un tabù. Sì, no, anche io oggi ho preso tutta la roba, la malta pronta, calce, quando l'ho preso tu vado solo, mai andato a comprare giù da di quelle cose, non ne ho mai comprato, però siccome mi servivano questi piatti doccia e cose, lì li trovi a poco prezzo, magari se vai anche da Tezzoni, da Tezzoni li trovi, però per se lì costa 30, ti danno paghi 80, perché ti danno un postiginuri, un coso, l'altra marca non mi ricordo come si chiama, Scaravanti, non me la metto, c'hanno macchine di prestigio, mentre questa è questa roba fatta in Cina, tanto non me ne interessava niente, è una cosa che non è importante avere l'ultimo ritrovato della tecnica, per cui ho preso uno di questi pochi, che costano poco, ci sono i pacchetti di lì che te li danno, tre pezzi li paghi a un prezzo quasi regalato, però quando devo prendere una guaina, le cose, mi ha fatto dei prezzi, nessuno, cioè lì come che prima costava di meno, adesso mi ha fatto un prezzo, nessuno, poi mi ha fatto uno sconto extra, perché già mi conosce bene il dottore, il padrone, e mi ha detto guarda, ma come c'è un ultimo rapporto tutti, però lui in particolare, adesso Stefano non c'è più, è andato in pensione, perché con Stefano eravamo amici. Claudio, ma adesso è quello di no, in via Oriani Gianfranco, via Oriani, sì, dottor Vesole, immaginate che i miei soci ci avevano praticamente collaboravano molto, capito? Perché c'erano il negozio in via straniere, con Stefano siamo andati assieme, siamo anche vicini di casa con Stefano, proprio vicini, 50 metri, ha visto quell'altra villa che c'è dalla parte, proprio nello scorrimento veloce, quella è la sua, abita lì lui, quindi siamo uno di fronte all'altro, ci incrociamo spesso, a volte quando io sto uscendo dal mio cancello, lui rallenta e mi fa passare, figurati. Dopo provo a Claudio, diciamo fra. Sì, ma è lui che si è bloccato. Sì, non sto uscendo, lo sento basso, ciao Carlo, lo sento basso del radio. Radio. Sempre così fa. Claudio, per 10-15 secondi non sei uscito di radio, ti sentivo proprio appena. Comunque è entrato anche Carlo. Comunque si chiama De Sole con due S, non De Sole. Non confondiamo. Stefano, già ti racconto la storia di quella casa di Stefano, poi qualche particolare. No, Stefano, siamo grandi amici. Il fratello lo sai chi è di Stefano, Claudio? Non è il poliziotto. No, non so se c'abbia anche fratelli poliziotti. Allora c'è un fratello che lavora da coso, da Grassi, in una vita, Gigi era mio compagno di scuola, più l'altro Marcello che lavorava, adesso è andato anche lui in pensione, non lo so, sì, è andato in pensione anche lui, qua al comune era l'ufficio tributi, roba della terza mondetta, cosa del genere. Marcello Fiori stai dicendo? No, quello è fratello di mio cugino acquisito, si chiama, c'ha lo stesso cognome di Stefano, non diciamo troppo particolare, questo Marcello. Ah, ho capito, sì. No, come c'è un po' da fare, mi si è inceppato questo cazzo di 60 e ora buio con la terra, ogni tanto fa questo effetto. Avanti Carlo, buonasera. Buonasera Roberto, Claudio e Gianfranco. No, stavo ascoltando, prima ero sul 23 con Franco, Marino, Ceratore, quindi stavo rientrando da Alghero. Adesso da voi, ma sono già dentro stanza, lì ci sono in via Mattino. Ehi, vai sul 23. È un canale che salto sempre, salto, faccio dal 22 al 24. Quando c'è qualcuno che non mi interessa, quando c'è qualcuno in gamba, come Tore, come Franco, allora magari posso anche tre salutare. Avanti Gianfranco. Sì, ciao Carlo, ben ascoltato, buonasera. Immagino che sei in macchina perché il segnale non è molto alto. Io ne approfitto per allontanarmi perché è tardissimo, devo andare a cena. Quindi niente, ci sentiamo alle prossime, dai. Buona serata, riprendi Claudio. Va bene, ciao Gianfranco, ti faccio salutare da Roberto, poi Carlo, ci mettiamo d'accordo in settimana che quell'antenna te la porto da Roberto e poi ci vediamo lì, ok, perché se no non riusciamo a togliere i piedi. Avanti Roberto. Ehi, ciao Gianfranco, ben sentito, dai, io rimango ancora un pochettino, poi mangio qualcosa, poi se ne vuole rientro, se no ci sentiamo domani. Grazie comunque a tutti delle info, Gianfranco, già ci sentiamo domani allora, ok, vai Carlo per i saluti da Gianfranco. Gianfranco, buonasera e buona ricarica, alle prossime. Sì Claudio, Blimi, già ci sentiamo, io sono disponibile, turni permettendo. Adesso domani e dopodomani sono libero, domani mattina sono a casa, tutta la mattina già accendo, magari se ne hai voglia prova a chiamarmi intorno alle 9:30 alle 10, già ti rispondo, così magari ci diamo un appuntamento più preciso se ti va, se no quando vuoi, ecco, no, non c'è problema. Niente, sono d'accordo con voi, io mi sono fatto tutto l'appartamento con due bagni, tutto da De Sole, prezzi ottimi, mi ha dato un pavimento che era una meraviglia. Sì, perché alla fine vai poi a risparmiare, è un casino. Io mi è successo un danno allucinante a me con il materiale del bricone, capito? Un materiale che sembrava buono, dell'isolante, che abbiamo messo appunto prima di pavimentare nel terrazzo di sopra, il sole cioè praticamente si è spaccato e stava colando acqua e quindi hanno dovuto togliere tutto, rifare nuovamente il incamiciare bene nuovamente il pavimento, andare da Desole, ho preso materiale buono, isolante buono, ok, della guaina liquida buona, e poi adesso a giorni pavimenteranno, capito? Però già con la guaina così senza pavimentazione l'acqua non sta scendendo più, mentre in quella che c'era prima la guaina si è spaccata col freddo, sono fatte delle crepe, filtrava l'acqua e mi stava lagando tutto il cavello dietro, capito? Un danno allucinante, infatti non ci vado più, c'hanno materiale di merda, adesso compro tutto alle sole, vai Roberto. Ehi, a quello elastico te l'avevo detto io, mi sono andato a prendere quello lì, quello è un prodotto all'acqua, per cui anche con le dilatazioni termiche c'è una resistenza eccezionale, proprio si tappa buchi sino, mi sembra, a un centimetro, 5 mm, adesso mi ricordo, se ci sono delle fessure, è micidiale quella guerra, costa un bel, però è buona. Facendo, Carlo, ma tu sai dove sono io, perché? Sì, perché ho visto le antenne e ho capito più o meno, perché l'altro giorno, una decina di giorni fa ero dal gommista lì vicino e quindi ho detto deve essere qua. Ma tu che antenne hai visto? Quelle vicino al gommista o quelle dall'altra parte della strada? Perché lì c'è anche una zona di amatore. Sono praticamente sopra un terrazzo, mi sembra. Se sono sul terrazzo sono le mie, che ci sono anche le parabole. No, perché dall'altra parte vicino, nell'area siamo a 30 metri, lì c'è anche un paio di antenne filari del radioamatore, di un radioamatore che io tra l'altro non ho mai sentito. Ci conosciamo benissimo di persona da tanti anni, però non ho mai sentito né in 27 né in banda radioamatoriale, vabbè, quello ci sono ancora da poco, però io non l'ho mai sentito. Ok, cosa volevo dire? Claudio, ti stavo dicendo qualcosa, me ne sono dimenticato. Avanti a te Claudio. Va bene. Sì, comunque ci mettiamo a mezzo d'accordo con Carlo e ci vediamo lì, perché mi viene più facile, capito Carlo? Anche perché già quasi assemblato, devi tirare su solo lo sub, il radiale piccolo per regolare appena i stazionari, io li ho scesi a 1,4, erano molto alte, però non posso darti la tarata perfettamente, la devi montare e poi la tari tu sul tuo tetto e innestare gli elementi centrali, basta, l'antenna è già piazzata, capito, deve innestare solo quello grande, quello da 8,50 m che è in 3 pezzi e basta, per il resto è già montata l'antenna, quindi fai anche in fretta, trovata già sembrata, però te la devo portare, capito? Ma ok, non c'hai qualche imperiale tu, se c'è un imperiale allora vieni a prendertela, se non è imperiale devo portartela per forza io. Purtroppo imperiale non ne ho, non lo so, poi magari già lo combiniamo un metodo per trasportarla qua, infatti io la metterei prima in garage, poi aspetterei anche il tempo buono per poterla installare, capito? Devo essere sicuro che faccia almeno un paio di giorni, 3 giorni, di una settimana di tempo buono per salire là e metterla come Dio comanda, capito? Sì, e allora non c'è problema. No, non c'è problema, te la ritiri, intanto ti ripeto, è già assemblata l'antenna, devi regolare le stazionarie, che è facilissimo perché c'è la J-Pole quella a fianco, devi tirare appena appena sullo stiro con lo strumento e poi lo stringi e te lo tari a misura giusta, perché io non te la posso dare già tarata così, perché da piano a piano cambia, e poi innestare gli elementi centrali e mettere le fascette, basta, è già pronta l'antenna, capito? Va bene, anche io Roberto ti volevo dire una cosa, mi sono dimenticato, la guaina, quella lì ho preso quella che mi hai detto tu, il bidone da 80 euro, 80 euro il bidone, quello che mi hai detto tu, ma è favoloso, bello, si vede che la guaina è robusta, è grossa, allora sembrava acqua, sembrava, infatti ha detto boh, un altro metto, ma ci vuoi che la guena andava, sì, mettiamo questa, avevo comprato il bricco ma c'è tutta spaccata, si è fatta in foglia, capito? E mi ha fatto un danno allucinante perché stavo rifacendo praticamente tutto sopra, per colpa mia, perché sono andato a risparmiare e poi vedi che ci rimetti, quindi adesso mai più, roba tutta la del sole, vai Roberto. Sì, ha visto solo c'è l'Atalanta 2-0 prendendo in casa. Sì, gliel'ho vista, sì. Ma è come l'Atalanta, non è fuori come il Milan. Certo che è fuori. Adesso dovrà vincere per forza. Ah, è vero, l'hanno detto anche ieri, sì, l'Atalanta dovrà vincere per forza. Quindi Milan Atalanta fuori. E il prossimo turno sarà dell'Inter. Perché è seconda nel girone. La Juve prima nel girone. Anche ieri ha picchiato anche l'altra. Quindi sono contento che almeno in Champions se la stia giocando, ma in campionato già ho visto che sta salendo piano piano, qualcosa di meglio sta facendo rispetto alle prime partite, poi vediamo. Che ora c'è fatta? 8:15, avanti Carlo. Sì, l'Atalanta diciamo esce dalla Champions, se finisce che perde 2-0 e si può giocare l'Europa League, però invece il Milan è fuori anche dall'Europa League, e porta Juve per ieri, comunque prima è andata bene alla Juventus ieri. Che ha pareggiato la Zenit 3-3, ma lì già ha vinto lo stesso. Se lo Zenit, se il Chelsea perdeva era ancora meglio, no? Non cambia niente, tanto c'ha due punti di scarto. Il problema della Juve, non so che sia proprio un vantaggio incontrare, arrivare primi, perché siccome il Paris Saint Germain è arrivato secondo, l'Atletico Madrid è arrivato secondo, gli può capitare sia le Chelsea, cioè sia l'Atletico Madrid che il Paris Saint Germain come incontro. Cosa ne fa il Paris Saint Germain e l'Atletico Madrid? Ma non sono squadre da temere, nel modo più assoluto. Guarda che il Milan come gioco li ha schiacciati, mi ha giocato molto meglio, solo che il Liverpool c'ha quegli elementi che basta che tocchi una palla te la buttano dentro. Sì, io già lo so, molto forte. Ma il Monaco è tutto un aggiusto al Barcellona, di nuovo a 3-0, il Barcellona è fuori del tutto, lo stesso la Champions League e in Europa League. Infatti se il Napoli arriva al secondo c'è il rischio che incontri il Barcellona, dal calcolo statistico dell'Europa League. Sì, al Barcellona è uscito fuori la prima volta dopo 17 anni al primo turno, ma è successo da quando c'era Messi 17 anni fa, hanno sempre superato il turno e hanno vinto anche dalle diverse coppe dei campioni. Si è acceso il Valle a 4 manecce, molto lontano dalla classifica, dalla prima del campionato nella Liga Spagnola. Quest'anno proprio una delusione totale, hanno cambiato l'allenatore, hanno preso Xavi, ma non cambia niente, no. Ok Carlo, dove sei arrivato tu? Praticamente ho parcheggiato, sono dentro il cortile, adesso vi lascio e ci sentiamo sicuramente domani, che ho un paio di giorni liberi, anche se c'ho un po' di da fare, ma già mi sentirò per la radio da casa, così mi sentite anche meglio. Ciao Roberto, ciao Claudio, ci sentiamo alle prossimine, perché salgo su adesso, non vedo l'ora di cambiarmi. Ciao Carlo, dai, ci aggiorniamo, non ti preoccupare, già è qua la tua antenna, no, non c'è problema, ci aggiorniamo, ciao, buona cena, buon tutto, avanti Roberto. Ehi amici, e poi siete sabato mattina liberi, non troppo tardi però, entro le 9:30, magari passi Carlo, ci viene anche Claudio, se non ha niente da fare, magari la porti lì l'antenna, sabato da me, tanto non dovrebbe piovere, piove sino a un certo orario, così andiamo a berci qualcosa insieme. Ehi, positivo, mi fa piacere, d'accordo, alle prossime, ciao, buon tutto, buonanotte. Ehi, dai, ciao, buon tutto, buonanotte, io tra poco stacco, anche se non è che ormai non so cosa faccio, se c'è roba alla televisione, anche so un po' così. Vai Claudio. Ciao Carlo, dai, ci aggiorniamo a fine settimana, non c'è problema. Domani ancora è brutto, ma dovrebbe andare in miglioramento tra venerdì, sabato e domenica, adesso vediamo. Ok, dai, ciao, buonasera, buon tutto. Sì, Robè, un altro passaggio, poi stacco anch'io, vado a cenare. Non so cosa c'è alla TV stanotte, noi stavamo guardando un film come mia figlia poco fa di Netflix. Adesso vediamo se c'è qualcosa. Domani c'è le Iene, quello lo voglio guardare, se trovo guardare guardatelo. Parlano di quei merdosi, di quei giudici antimafia che si hanno mangiato tutto, quella la dottoressa saputo, io l'avevo già seguito tempo fa, guarda, è una vergogna, ti vengono i nervi, vorrebbero prese e schiacciarti, cosa hanno combinato questi balordi, hanno sottratto per i divertimenti loro anche a persone che non c'entravano niente, hanno fatto fallire attività, eccetera, e poi si rendevano rigosi per amicizia, se li davano ad altra gente, si facevano i camuffi personali, compreso un finanziere, compreso un professore universitario che dava i compiti di laurea al figlio di lei, hanno fatto un camuffo di assicurazione, guarda, delle cose, neanche il peggior delinquente, loro erano giudici, il capo dell'antimafia di Palermo, te ne rendi conto? E già ho capito chi è quello che ha preso il posto del Falcone. Una cosa scandalosa, cioè io li avrei radiati da tutto, da tutti gli uffici, e li avrei fatto in carcere, non a vita di più, mandati in un'isola deserta, hanno fatto una cosa vergognosa, cioè tu che devi giudicare le persone e ecco ti sei permessa di fare cose ancora peggiori di quelli che hanno fatto. Guarda, quando io ho visto quella trasmissione ho visto dei pezzi, mi veniva l'energia di prendere questa strafottente che era intoccabile, era tutto un giro, poi il marito, il cognato, tutto un giro di mafia, compreso questo finanziere colonnello che era intralazzato, lui, ma li hanno fatti nuovi nuovi, adesso quello avrà finito, lei gli ha dato solo 4 anni e tanto poi andrà, si va manco un giorno di galera, eppure poi ritornerà in corso, perché la magistratura a quei livelli è sporca, ma non ne può più. E io credo che è sporca. E vabbè, ma lì non so, lì è un problema che è già successo altre volte, capito? Adesso vediamo, no, io me lo guardo sempre a Iene, ehi caspita, sono dei bei così, dei bei filmati, belle riprese, a chi si radruncola, ma mi dico la ragazza che si acciccia veramente, lo boy Puget, che ha truffato la cosa col giocatore pallacane con la sarda. 15 anni con lo Castanega di pallavolo, ma io dico, ma bussi in macchua e uno, e tu 15 anni non dici dai, ci incontriamo, vieni qua, andiamo, cazzo, un colpo di scoglio e gli ha fottuto 700.000 euro. Hanno difficoltà adesso, anche perché mi ha guadagnato tanti soldi quello, tanti, ma dice invece tante brutte, ma brutte, e continua a negarsene. Ma io dico, è possibile che sei così ingegno? Io posso capire, magari un profilo falso, qualcuno ci casca, cazzo, ma li mandi anche soldi, ci stai 15 anni, la mia fidanzata, quella e quella, cazzo, sarei andata lì a appello, che a questa non gli fanno niente, questa prende una denuncia e basta, e non gli possono fare niente, perché i soldi li ha dati lui spontaneamente, non è che gliela storti con la forza o con qualche cosa, minaccia. No, infatti lei ha detto che cosa ha detto, sia te ti chiedo dei soldi, tu mi dai che cosa ti sto rubando, no, me li hai dati tu. Non gli possono fare niente, perché lui cosa gli fa? La denuncia, che è scemo lui, che c'è cascato come un pollo. Come infatti, cioè, di cosa si muovono i denti, io non riesco a capire come mai, perché, vabbè, non lo so, comunque, ci vedrà cosa ne salta fuori. Vabbè Robby, dai, ti saluto, se domani fa come stamattina, che se c'è freddo magari ci passo, se no, se vedi che non ci passo vuol dire che non posso scendere, che ci sono i muratoros, ok? Ci aggiorniamo, dai, ti lascio, vado a pappare che sono le 25. Se coincide a più tardi, altrimenti a domani. Ciao. Sì, ciao, buon tutto qua, sto aspettando che mi chiami, vabbè, ci vado qualche minutino qua, forse io, anche io vado a mangiare. Ciao ciao. Ciao Robby. Pomponio, cambio. Pomponio. Attenzione, Pomponio, cambio. Non c'è stai. Domani mattina ti devo chiamare. Pomponio, ti ho chiamato stamattina, non hai risposto. Pomponio! Ciao a tutti, anche quelli che sono in ascolto non rispondono. Ciao.